Il gastronauta di Davide Paolini. Una buona giornata a tutti, soprattutto un buon viaggio, perché oggi è sicuramente un rientro dalle vacanze, quindi molti di voi radioascoltatori magari sarete in fila. Allora niente male, vi faremo compagnia noi, vi racconteremo delle bellissime storie di giovani che hanno trovato nella terra e nei lavori che riguardano il cibo e riguardano la terra sicuramente grande interesse, e quindi vi faremo compagnia con loro, con le loro storie, con i loro prodotti, e sicuramente una ventata di gioventù anche in settori che sono sempre considerati magari animati da persone più anziane. Quindi cominciamo questo giro in Italia, questo itinerario straordinario, appunto, tra storie, giovani e cibo, e terra soprattutto, perché ricordiamo che la terra sicuramente è la madre di ogni cibo, e quindi è giusto spesso tornare alla terra, parlare di agricoltura. E allora noi cominciamo questo viaggio dalla Sicilia, da Leonforte. Leonforte, in provincia di Enna, è un borgo conosciuto dal punto di vista agricolo, soprattutto per le pesche tardive, ma non solo. E allora noi incontreremo in questo viaggio, appunto, Leonforte, un personaggio che negli ultimi anni, un giovane agricoltore che veramente si è messo in luce, ha così recuperato dei prodotti che erano andati perduti, ne ha prodotti di nuovi, completamente nuovi, ma ora sentiremo dalla sua viva voce prodotti nuovi per quella terra, a cominciare dal riso. Buongiorno ad Angelo Manna. Buongiorno, ciao Davide. Angelo, allora, tu da un po' di anni, diciamo, sei, non dico la ribalta, però sicuramente sei nelle cronache che riguardano la terra, che riguardano l'agricoltura, perché prima di tutto hai recuperato una lenticchia nera che era perduta, e poi anche hai prodotto il primo riso siciliano. Insomma, cosa ci stai preparando per la prossima puntata? Stiamo lavorando per voi, come si dice in questi casi. Sì, noi a Leonforte circa 10 anni fa quasi ormai abbiamo recuperato questa lenticchia nera, che è una varietà di lenticchia tipica della parte nord, diciamo, della provincia di Enna, e che però appunto 10 anni fa era praticamente quasi estinta, era praticamente scomparsa. Da 2 anni stiamo lavorando a questo recupero del riso in Sicilia. Che in realtà è nata come molte cose, insomma, come un gioco, quasi uno scherzo. In realtà è diventata una scommessa molto importante, nella quale crediamo e nella quale ci stiamo scommettendo tantissimo. Ecco, non solo riso, non solo lenticchia nera, perché c'hai anche la lenticchia, chiamiamola così, verde, ma soprattutto tu hai prodotto e stai producendo una serie di marmellate che io consiglio ai nostri radioascoltatori, perché sono veramente molto, molto, come posso dire, ben prodotte, e devo dire che si sente l'uso della frutta, soprattutto l'uso della frutta. Allora, ce ne vuoi parlare anche delle marmellate, perché ne hai alcune molto particolari? Sì, certo. Noi in realtà, come dicevi prima tu, siamo famosi a Leonforte per la produzione della pesca tardiva di Leonforte, che è una varietà di pesca locale, tipica della zona, che matura tra settembre e ottobre, e che è molto particolare per l'utilizzo di una tecnica che è l'insacchettamento, insomma, che rende molto particolare questa pesca. Qualche anno fa abbiamo iniziato appunto una produzione di confetture a partire da questo prodotto, che, diciamo, rappresentava la nostra principale produzione fino a qualche anno fa. Da questa produzione di confetture di pesca di Leonforte, che è fatta con l'80% di frutta, zucchero di canna e succo di limone, senza pectina, senza conservanti, proprio perché l'idea che ci stava alla base era quella di produrre un prodotto che desse in qualche modo la sensazione di assaggiare quasi una pesca fresca. Da questa confettura di pesca poi sono nate tutta una serie di altre confetture e marmellate, tra cui quella di albicocca, che è sempre prodotta da noi, e da circa 6-7 mesi sono arrivate in commercio anche altre confetture, come quella di arancia rossa, di limone, mandarino, fichi d'India, e l'ultima, che è proprio è stata messa nel mercato recentemente, proprio da poche settimane, è quella di Gelsineri. Ecco, Gelsineri sono straordinari soprattutto perché in Sicilia il gelsonero trova pan per i suoi denti, e devo dire che anche le granite di gelsonero sono veramente straordinarie. Però voglio tornare sulle tue marmellate, perché quella di fico d'India, cioè io mi sono chiesto, ho visto questa marmellata, ma come si fa a produrre la marmellata di fico d'India? Come si fa? È complicato. Diciamo, il lavoro che ci sta dietro è molto complesso, soprattutto per il discorso ovviamente di sbucciare il fico d'India, che non è semplice perché viene fatto tutto a mano, e poi ovviamente vengono passati i frutti in un setaccio che riesce a dividere anche i semi, perché poi quello diventa anche un altro problema. Però come hai avuto modo poi tu anche di assaggiare, il fico d'India è anche un frutto magari un po' inusuale per le confetture, che se ne trova poco in giro, però comunque rende molto bene, comunque dà una sensazione molto particolare, certo. Ad esempio che si abbina anche molto bene con i formaggi, insomma può essere utilizzato per diversi modi. Ma devo dire, ad essere sincero, io la prima volta che l'avevo visto è la prima volta che ho assaggiato. Angelo, però ci sono, per così dire, delle bellissime notizie, delle bellissime cose come le tue marmellate, le tue lenticchie, il tuo riso. Però sicuramente ci sono anche molti altri aspetti negativi, perché tu ultimamente hai avuto non pochi problemi. Sì, purtroppo l'agricoltura, insomma, è un settore che crea molti problemi, anche perché si è sottoposto a tutta una serie di incognite, quali quelle legate al clima, legate a eventuali attacchi di parassiti, insomma, per cui in agricoltura si sta sempre con molta attenzione. E noi purtroppo negli ultimi anni, soprattutto per i legumi, in particolare per la lenticchia nera e la fava larga di Leonforte, che è un altro prodotto, certo, straordinario, tipico della nostra zona, un prodotto storico, abbiamo avuto qualche problema a livello di produzione, perché gli andamenti delle ultime stagioni sono stati un po' particolari, un po' inusuali, e per cui abbiamo avuto una produzione veramente bassa. Bene, speriamo che la prossima produzione, Angelo, ti assista e sia importante, anche perché vogliamo che tu continui a produrre queste delizie veramente straordinarie. Grazie ad Angelo Manna, grazie. Grazie, grazie a te. Buongiorno. Allora, ha parlato di clima, ha parlato di difficoltà, e io ora di clima ne voglio parlare con Massimiliano Croci della vitivinicola di Castel d'Arquato. Perché con Croci? Perché Croci produce un vino molto particolare, inusuale in Italia. Massimiliano, ce lo racconti? Sì, buongiorno Davide. È un prodotto molto particolare perché noi produciamo un vino di ghiaccio, i cosiddetti ice wine, a Castel d'Arquato. Castel d'Arquato è un paesino in provincia di Piacenza. Noi siamo posti quindi sugli Appennini, con i nostri vigneti che guardano a nord, ma siamo graziati da una corrente d'aria fredda che arriva dalle montagne poste alle nostre spalle. Purtroppo non tutti gli anni naturalmente riesce questa condizione climatica che ci permette di produrre questo vino. Quindi sperate sempre nel freddo, Massimiliano? Sì, perché io utilizzo le nostre uve tipiche, Malvasia di Candia e Moscato, e il freddo, la gelata, la gelata notturna, il freddo secco, il freddo asciutto deve arrivare tra novembre e dicembre, massimo gennaio, se no poi purtroppo... Che temperatura deve arrivare? Anche meno 10, meno 15, quest'anno siamo arrivati addirittura a meno 20, ma purtroppo ormai era febbraio e questi cambiamenti climatici... Cioè abbiamo avuto un dicembre e gennaio caldissimo e poi una gelata a febbraio, ma ormai l'uva non era più sulla pianta. Senti, quindi quest'anno tu non hai potuto produrre nulla? Purtroppo niente, neanche una goccia di ice wine. E l'ultima annata qual è stata, quella che hai prodotto? No, l'anno scorso siamo riusciti a fare una bella produzione, abbiamo fatto una bella produzione nel 2009-2010, pochissimo nel 2007 e neanche una goccia neanche nel 2006, che è stata un'annata simile a questa. Ecco, come va bevuto? Cioè con cosa va accostato l'ice wine di solito, il tuo ice wine? Ma il mio ice wine, come tutti gli ice wine, anche se è più caldo perché è fatto con uve più mediterranee, è un vino di grande grassezza, poco alcolico, ma con un equilibrio acido che va a mitigare la parte dolce e grassa molto potente che ha. Noi di solito lo accostiamo con i formaggi arborinati, con i nostri formaggi delle colline piacentine, se no addirittura un vino da meditazione, ecco. Da solo. Bene, io ringrazio Massimiliano Croci dell'azienda vinicola, appunto, che si chiama Croci di Castel d'Arquato, e ricordo anche Angelo Manna, che è stato con noi prima, non avevo detto, di Agrirape, l'azienda Agrirape a Leonforte. Segnateli perché fanno davvero dei prodotti straordinari. A fra poco. Il gastronauta. Continuiamo questo bellissimo viaggio tra giovani agricoltori, giovani che si sono reinventati il lavoro oppure che hanno ripreso il lavoro dei genitori, lo hanno rilanciato e lo hanno anche sicuramente modernizzato. E storie bellissime, perché sono storie anche umane, sono storie straordinarie da raccontare, ma anche i loro prodotti sono sicuramente da assaggiare, come quelli di Sonia Spagnoli dell'azienda agricola La Casera. Ebbene, questa azienda agricola è particolare perché Sonia appunto lavora in malga e produce appunto formaggi di malga. Buongiorno Sonia. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Sonia, sei in malga oggi? Oggi sono in malga e fortunatamente riesco a ricevere con il telefono, così riesco a parlare. Cosa stai facendo oggi? Raccontaci un po' la tua giornata. La mia giornata insieme ai miei familiari, ai miei genitori, a un fratello più grande, è abbastanza movimentata. Facciamo due lavorazioni al giorno, lavoriamo latte, circa 5 quintali di latte al giorno, e lo trasformiamo in prodotti. In particolare facciamo formaggi a lunga stagionatura che vengono prodotti qui e stagionati per 3 mesi proprio in alpeggio. E sono prodotti tipici, abbastanza conosciuti e ricercati. Senti Sonia, tu da tanti anni sali in malga, vero? Da quanti anni? Ho iniziato a frequentare questa malga con la mia famiglia nel 2000, quindi sono un po' di anni, e da un paio d'anni adesso sono titolare e gestore di questa azienda agricola di montagna e di questo alpeggio. Mi dicono che l'hai salvato tu questo alpeggio di fatto, perché magari i tuoi volevano mollare. Sì, è vero, da quando sono diventata un po' la responsabile, insieme ovviamente anche all'aiuto dei miei familiari, è diventato un bel ambiente, un po' variegato, ci sono tante attività legate proprio alla lavorazione del latte, quindi alla trasformazione in formaggi tipici, ma poi ci sono anche tante altre attività un po' innovative. Negli ultimi anni soprattutto ho iniziato ad ospitare anche ragazzi che vogliono avvicinarsi a questi lavori, a questi mestieri, e do la possibilità a loro di vivere magari una settimana, 15 giorni, la possibilità di conoscere questo ambiente, questo lavoro, e magari un domani intraprendere un mestiere come il mio, fare il casaro, la situazione. Senti Sonia, non ti pesa quando sei in malga, al periodo della malga, così che ti manca magari, come posso dire, la vita di tutti i giorni, la vita di una ragazza? Tu hai 25 anni, se non erro. Sì, ho 24 anni, sono molto giovane. Mi mancano un po' i miei amici, nel senso che non riesco a coinvolgermi a pieno, però poi vivere qui ti regala tante soddisfazioni, tante emozioni. Ho conosciuto tanti clienti, tante persone appassionate che mi sostengono e mi fanno credere a pieno in questa attività, che ha bisogno di essere veramente seguita passo passo, per cui ci vuole molta convinzione, molta passione, e anche io ho bisogno di persone che credono in me, credono in questa attività, nella montagna, che ha bisogno di essere gestita. Bene, grazie Sonia. Io voglio ricordare che ha anche scritto un bellissimo libricino, Sonia Spagnoli, raccontando la sua esperienza. E voglio ricordare azienda agricola La Casera, località Dosso, Giannico di Brescia, in provincia appunto di Brescia, e quindi chi volesse mangiare degli ottimi formaggi di malga, credo che questo sia l'indirizzo giusto. Ma ora andiamo in Sicilia, da un'altra giovane che così ha sposato un'agricoltura un po' particolare, un prodotto particolare che a qualcuno magari, qualcuno quando sentirà di che cosa si tratta dirà ma è possibile, ma qual è? Si tratta di manna, molti penseranno alla manna biblica, ma non è così. Vero Anna Maria Musotto? Verissimo. verissimo, verissimo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori cos'è la manna? Sì, la manna in pratica è la resina dell'albero di frassino che viene raccolta facendola scorrere su un filo di nylon, viene raccolta proprio in questo periodo dall'inizio di luglio fino ai primi di settembre e poi si solidifica al sole dopo una settimana circa. Ed è uno zucchero, ha un sacco di proprietà ed è supernaturale. Ecco, viene usato solo da noi. Viene usato in funzione dello zucchero, in sostituzione, sì, dello zucchero. Sì, sì, è uno zucchero con un bassissimo contenuto di glucosio e fruttosio. Infatti è consigliato per i diabetici, per esempio. Senti, ma dove lo commercializzi questo, la manna? Dove si può trovare? Noi abbiamo un'azienda agricola a Pollina che fa, oltre alla manna, agrumi e olio. Noi lo vendiamo direttamente, quindi lo vendiamo in azienda. Chi sono i tuoi acquirenti di solito? Ma in realtà sia privati, perché poi ovviamente è un prodotto di nicchia, quindi anche molti siciliani non lo conoscono molto, no? Però anche viene comprato dai pasticceri che fanno prodotti dolciari, case farmaceutiche che ne fanno medicine omeopatiche, insomma, varie destinazioni. Ma viene distribuito anche fuori, appunto, di Pollina? Sì, se ce lo richiedono, sì. Però diciamo che principalmente ne facciamo vendita diretta, non anche trasformazione. Se non erro, poco lontano da voi, tempo fa, c'era, forse ancora oggi, un produttore di panettoni che usava... Sì, esatto, infatti... Fiasconaro, se non erro. Fiasconaro, sì, di Castelbuono, che è a Castelbuono lui. Sì, è la prima volta che ho assaggiato la manna, infatti. Non... Ah, l'ho assaggiata. Sì, l'ho assaggiata nel panettone, ovviamente, non è che l'ho assaggiata... Sì, l'ho assaggiata così, quindi sicuramente... Ma devo dire che, appunto, quando si dice manna, tutti non pensano che sia un prodotto commestibile, ma pensano ad altro. Pensano... Ma molti non la conoscono ancora. Devo dire che ultimamente ora la nostra azienda è affiliata a Coldiretti e grazie anche a Coldiretti sta avendo un pubblicità, insomma, comincia ad essere conosciuta, perché non è, anche perché viene prodotta solamente nella zona di Pollina e Castelbuono, quindi... Anche per questo. Sì, mi sembra che Fiasconaro sia Castelbuono, sì, esattamente. Sì, sì. Senti, sì. Ma ti risulta che ci sia qualche gelatiere anche che la usa per il gelato? Non credo, ma secondo me Fiasconaro ci arriverà, però non è una brutta idea. Però i pasticceri la usano, tu dicevi, I vero? Pasticceri, sì, sì. Sì, perché è proprio come dolcificante naturale. Bene, allora, dacci l'indicazione chi volesse ordinarti la manna. La nostra azienda è a Finale di Pollina, non abbiamo un sito purtroppo perché siamo tradizionalisti, poco tecnologici. Beh, l'indirizzo, dacci l'indirizzo. Forse l'indirizzo è Finale di Pollina, via le stazioni numero 7. Bene, tu hai detto che produci anche arance e olio. Arance, sì, e olio, agrumi di tutti i tipi e olio. E l'olio che coltivate? Nocellara. Ah, la nocellara, quindi la famosa nocellara del Belice. Sì. Benissimo, benissimo. Grazie Anna Maria Musotto. Grazie a voi, grazie. Grazie per la manna, un ricordo così abbastanza spirituale, diciamo. Bene, ora torniamo invece sul materiale, torniamo sul vino perché ora andiamo in Emilia, andiamo a Campo Galliano, in provincia di Modena, quindi andiamo sicuramente in zona di Lambrusco e... Tutti sanno ormai che io sono un grande appassionato di Lambrusco, ma soprattutto di Graspa Rossa. Ora sentiamo Giampaolo e Isabella. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno, un piacere essere qui con lei. Giampaolo, ma voi producete anche Graspa Rossa? No, noi siamo nella DOC del Sorbara principalmente. Poi abbiamo anche, ovviamente perché serve per impollinarlo, abbiamo anche il salamino di Santa Croce, che è il vitigno, certo, diciamo, regina della nostra terra, ecco. Senti Giampaolo, questa è una storia tra due amici, se ho ben capito, è così? Sì. Ce la racconta? Noi non siamo coltivatori diretti di generazioni da famiglie, ma siamo, diciamo, due amanti di quello che è il vino, di tutti i suoi processi lavorativi, ma soprattutto dell'aspetto proprio più rurale della coltivazione proprio della vite. Io e mio cognato Marcello, appunto, ci siamo nel 2005, ci siamo stancati del lavoro che facevamo prima. Lei che lavoro faceva? Io facevo l'ottico, la mia famiglia aveva un negozio di ottica in Piazza Grande a Modena. E invece Marcello? Marcello stava studiando, stava finendo di studiare e l'ho coinvolto nella mia passione per il vino, soprattutto per la vigna, perché quello che mi piace fare è stare in mezzo alle mie vigne. E appunto ci siamo appunto ritrovati con un sogno nel cassetto e abbiamo fatto di tutto per realizzarlo e finalmente quest'anno abbiamo la nostra cantina. Quindi siete partiti, cosa avete comprato? Vigneti? Da zero, siamo partiti da zero con tanti sogni e soprattutto con tante idee in testa, perché serve un processo ben preciso, ecco, perché non avevamo la fortuna di avere dietro un'azienda agricola, per cui non avevamo dei grossi capitali, per cui il primo mutuo in banca comprato a terra nuda e abbiamo iniziato a fare la vigna proprio da zero, piantandola a mano, compresi i pali. Insomma, è stata una bella avventura, ecco. E poi piano piano quest'anno avete costruito la cantina? Sì, quest'anno finalmente, dopo tanti anni passati in affitto presso amici, siamo riusciti un po' a ristrutturare il vecchio casale che abbiamo lì ai laghetti proprio di Campogagliano, una zona molto bella perché è l'ex argine del fiume e appunto una zona molto naturale, molto bella, e siamo riusciti un po' alla volta a rimettere a posto, insomma, la vecchia casa, ecco. Senta, il modello di produzione vostro, qual è stato come Lambrusco? Ma guarda, noi innanzitutto ci siamo un po' staccati da quello che era il modello generale di tanta uva e poca qualità, insomma, tipica proprio del nostro territorio, e ci siamo un po', diciamo, addentrati soprattutto nell'aspetto agronomico, andando a conoscere realtà ben lontane dalle nostre, facendo tanti viaggi, tanti studi, che so, in Oltrepò Pavese, piuttosto che anche in Sicilia, piuttosto che anche in California, dove siamo stati molto tempo fa in visita da diverse aziende. Abbiamo cercato di trasportare qua quelle che erano, diciamo, realtà produttive ben diverse dalle nostre, senza ovviamente tralasciando i discorsi di tradizione, quello è fondamentale per noi, però cercando soprattutto di cogliere quello che era, secondo me, un aspetto che qua da noi mancava, che era l'aspetto appunto di curare la vigna per cercare di dare un determinato tipologia di vino, quello senz'altro. Bene, allora ricordo Podere il Saliceto, così si chiama il vostro vino, no? Podere il Saliceto. Esatto, sì, Podere il Saliceto è il nome della nostra azienda, noi il nostro vino si chiama il Falistra, che è un Lambrusco di Sorbara fermentato in bottiglia. Bene, grazie a Giampaolo Isabella, e ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, racconteremo altre bellissime storie. Il gastronauta. In questo nostro paese, come avete sentito, ci sono ancora delle bellissime storie. Non tutti i giovani e i ragazzi vogliono fare i calciatori e non tutte le ragazze vogliono fare le veline. Abbiamo sentito addirittura una storia di Malga, di Sonia Spagnoli, la quale a 24 anni, da 5-6 anni, ha deciso di andare in Malga 3 mesi e produrre formaggio, poi continuare ovviamente a fare la casara tutto l'anno. Oppure ci sono dei giovani che hanno scoperto la passione per il vino e, senza avere così agricoltori in famiglia o produttori di vino, sono tornati al vino proprio per passione, abbandonando i loro mestieri. Oppure c'è come Angelo Manna dell'azienda agricola AgriRapi di Leonforte, che di anno in anno si inventa sempre dei nuovi prodotti o va a ricercare dei prodotti che sono scomparsi e le riporta vita. Insomma, bellissime storie, e noi vogliamo ancora continuare a raccontarvele, perché ce ne sono molti di questi giovani ed è giusto che siano fatti conoscere, e soprattutto i loro prodotti, perché questi giovani sicuramente hanno bisogno di vendere, hanno bisogno di mercato, a cominciare, come diceva Angelo Manna, ci sono delle stagioni purtroppo molto dure in agricoltura, quando il tempo non aiuta alcune coltivazioni, come è successo a lui con la lenticchia nera, così rara che aveva riportato alla luce e che per un anno non ha potuto produrre. Comunque continuiamo, andiamole ancora a cercare, ed ora andiamo in un borgo famosissimo della Puglia, un borgo famoso per il pane ed è Altamura. Chi non conosce il pane d'Altamura? Purtroppo in questo paese ci sono anche, per così dire, le truffe, nel senso che molti spacciano pane di Altamura, in realtà è pane tipo Altamura, quindi questa città sicuramente famosa per la sua lavorazione, molte volte in alcune così panetterie in giro per l'Italia viene spacciato un pane che non arriva da Altamura. Ma andiamo ad Altamura perché non tutti producono il pane di Altamura e tantomeno pane di tipo Altamura, ma addirittura sono andati così a scoprire altre produzioni, sicuramente per variare e quindi per avere anche delle nicchie di mercato. Buongiorno a Gioacchino Di Leo. Buongiorno. Gioacchino, mi racconti la tua storia? Sì, praticamente io sono un agricoltore, ho 28 anni e da circa 2 anni insieme ad altri 2 agricoltori produciamo. Abbiamo avuto l'idea di unire la farina di grano duro della varietà Senatore Cappelli, che è una varietà di grano, una delle prime varietà di grano circa del 1900, scoperta nel 1900, e unire appunto questa farina con miscelandola con farina di topinambur, che è un tubero che ha origini del Nord America, che ha delle caratteristiche particolari. In particolare, essendo ricco di fruttosio e avendo poco glucosio, è idoneo per l'alimentazione di diabetici e di bambini ed è un pane molto più dolce rispetto al pane tradizionale di Altamura. Beh, diciamo subito che Senatore Cappelli il nome non è cioè non è di un senatore, di un parlamentare, no. È un nome e cognome, quindi, perché molti quando sentono Senatore Cappelli pensano, dice, perfino i senatori si mettono anche a inventare del grano. No, Senatore Cappelli è stato un personaggio molto importante, sì, dell'agricoltura italiana, quindi ricordiamolo con molto piacere. Volevo chiederti, com'è nata proprio l'idea? Chi è stata questa idea di questa mescolanza per ottenere questo pane particolare? Praticamente diciamo che il pane al topinambolo si produce già. Noi abbiamo avuto l'idea di unire appunto questa farina, che ha delle farina di questo grano duro, che ha delle caratteristiche, è una farina di ottima qualità. Sì, certo. Unire appunto all'innovazione del topinambolo. Senti Gioacchino, ma tu hai detto siete 3 che venite dall'agricoltura. In particolare, quale attività all'interno dell'agricoltura? Oltre a produrre grano e topinambur, abbiamo anche un punto vendita diretto dove produciamo ortaggi, legumi e frutta. Quindi andiamo direttamente a... Quindi è un'azienda agricola la tua? Sì, un'azienda agricola a tutti gli effetti, appena a 360 gradi. Vicino ad Altamura? Sì, ad Altamura, da 5 km da Altamura. E gli altri tuoi 2, diciamo, soci in questa operazione pane, sono anche loro agricoltori, hai detto? Sì, anche loro agricoltori, sì. Sono cerealicoltori e hanno anche oliveti. Ecco, dove vendete questo pane? Allora, il pane viene venduto in alcune panetterie ad Altamura. Diciamo che è una cosa che è nata da poco, quindi c'è bisogno di crescere ancora. Vabbè, vediamo, se c'è qualcuno che è interessato ti metteremo in contatto per farti vendere appunto il tuo pane al topinambur. Grazie Gioacchino. Grazie e buona fortuna con questo pane particolare. Bene, ora andiamo a Foggia da Andrea Suriano. Anche qui abbiamo veramente delle produzioni molto particolari. Diciamo che l'ingegno anche giovanile arriva sempre così a coprire certi vuoti, perché in questo momento le spezie, specialmente quelle orientali, sono molto richieste sul mercato, sono richieste perché diciamo che con l'arrivo di flussi di migrazione anche la cucina si sta evolvendo, si sta contaminando con tutta una serie di prodotti appunto che arrivano da altri paesi e soprattutto dall'Oriente. Allora, Andrea Suriano, buongiorno. Buongiorno. Andrea Suriano, bene, lei produce spezie orientali, se non erro. Sì, in una piccola nicchia sto iniziando questa produzione da circa 2 anni di queste spezie, alcune tipologie. Come le è venuta l'idea di produrre queste spezie? Ma è nata soprattutto da un'idea di integrazione, vale a dire, essendo produttore di ortaggi e utilizzando una manodopera quasi totalmente straniera, vedevo, proprio riuscivo a notare la necessità da parte di questi lavoratori di ritrovare i loro prodotti, le loro spezie, per cercare di avere una parte del loro paese anche qui in Italia. E da lì è nata l'idea di tentare la produzione di queste spezie che in questi terreni non sono mai stati prodotti, sia per problematiche ambientali che climatiche. Io la trovo una bellissima idea, soprattutto un'idea veramente importante per un discorso di integrazione. Mi vuole dire quali sono appunto queste spezie che lei sta producendo? Sì, le spezie vanno dallo zafferano alla paprika, allo zenzero, passando per la curcuma, tentando poi di trovare altre nuove tipologie di spezie da poter coltivare in questi terreni, trovando un habitat favorevole. Ecco, mi pare che lo zenzero ormai sia una delle spezie più richieste in questo paese, perché sicuramente ormai non c'è locale, ristorante o ortofrutta che non abbia appunto lo zenzero. E lei la sente questa domanda di zenzero da parte anche della ristorazione? Diciamo che qui al sud da noi forse questa richiesta di zenzero è leggermente attutita. Si sta sviluppando anche qui, sta entrando nelle cucine italiane, anche nella cucina mediterranea tipica della zona. Senta, lei distribuisce anche da altre parti oltre che nella sua provincia di Foggia? No, non ancora, anche perché è una produzione ancora, diciamo, sperimentale, nel senso che essendo piante molto particolari che hanno bisogno di climi quasi tropicali, non si possono avere delle grandissime quantità, quindi al momento è più una produzione di nicchia che si svolge in provincia di Foggia. Bene, io la ringrazio Suriano, credo che sicuramente vedrà, lo zenzero avrà un grande sviluppo e sicuramente dovrà cominciare a spedire anche da altre parti. Grazie, grazie a lei. Bene, continuiamo questo viaggio e ora da Foggia, dalla provincia di Foggia, andiamo in provincia di Cremona, andiamo in un paese che ha una piazza forse una delle più belle d'Italia, andiamo a Isola Dovarese. Buongiorno Roberto Zelioli. Buongiorno, buongiorno dottor Paolini. Senta Zelioli, io so che la sua storia è veramente una storia molto divertente. Cioè, lei prima faceva il disegnatore meccanico, così? Sì, allora, sì, esatto. Ci racconta cosa fa oggi? Dunque, oggi da pochi mesi definitivamente sono diventato un frutticoltore, un agricoltore che produce mele Modì qua a Cremona. Senta, la mela Modì da dove arriva? La mela Modì è una mela nata e sviluppata in Italia dal Centro di Innovazione Varietale, il Consorzio Italiano Vivaisti di Ferrara, che in alcuni decenni è riuscito a ottenere questa mela rossa, particolarmente adatta alle zone di pianura per la produzione. Senta, mi racconti un po', ma lei faceva il disegnatore meccanico, scontento di questo lavoro? Sì, scontento di questo lavoro no, era il desiderio di creare qualcosa di mio, sfruttando al meglio le risorse che avevo. Io, mio papà possiede una piccola azienda agricola e adesso sul finire della sua carriera lavorativa si è evidenziata questa opportunità, nel senso di utilizzare questi 4-5 ettari di terreno per poter fare una produzione di qualcosa di intensivo e non di estensivo come abbiamo qua a Cremona. Senta, dal punto di vista economico ha fatto una scelta giusta? Dal punto di vista economico, diciamo, mi auguro di sì, nel senso che adesso non riesco a darle ancora una risposta precisa, più che altro perché i mercati al giorno d'oggi, soprattutto l'ortofrutta, ne risente parecchio. Questa è una mela che dovrebbe andare un po' meglio di altra ortofrutta, proprio perché è gestita club. Cosa significa gestita club? Ecco, questa mela è gestita da un consorzio che ha sede in Italia, un consorzio europeo praticamente, che però gestisce al meglio praticamente tutta la filiera, nel senso dalla pianta in vivaio fino alla vendita nella grande distribuzione, quindi cercando di controllare, diciamo, la domanda e l'offerta, non cercando di produrre più di quanto sia vendibile, insomma. Quindi diciamo che è un mercato calmierato, insomma, questo. Esatto, un mercato contingentato da come possono esserci altri prodotti, insomma, anche nell'ortofrutta. Questo è nato praticamente sul modello di quei... Senta, ma anche la sua vita è cambiata da quando, diciamo, sì, è passato a fare l'agricoltore? Sì, decisamente. Naturalmente orari e impegni sono diversi, poi ho la possibilità di sfruttare l'esperienza di un mio amico che è da 20 anni in frutticoltura, che mi sto creando insomma la mia esperienza per poi trasferirla a casa mia. Senta, questa mela diciamo che è buona da mangiare o anche buona da cuocere, da fare dolci oppure... Sì, è una mela diciamo che è buona anche per fare dolci e da cuocere. È una mela croccante e succosa allo stesso tempo, infatti il suo motto è la mela con l'equilibrio perfetto, nel senso che è croccante, assomiglia a una mela verde nella croccantezza, mentre una mela gialla come dolcezza e succosità. Bene, grazie Roberto Zelioli e la sua mela Modì mi ricorda molto Modigliani, insomma, comunque va bene così, a presto Roberto Zelioli, e continueremo fra poco con altre storie, formaggi e altro. Soprattutto andremo anche in un agriturismo a scoprire alcune cose molto particolari che fanno un gruppo di giovani. A fra poco. Il gastronauta. Storie bellissime di giovani che sono tornati alla terra. Alcuni hanno abbandonato alcuni mestieri che facevano già, altri invece hanno cominciato appunto facendo gli agricoltori subito, anche se non avevano i padri, i genitori che erano agricoltori da generazione, quindi proprio per la passione per la terra. E continuiamo questo viaggio, perché ora ne scopriremo altri. Andremo ora da un filosofo mancato ma un casaro ritrovato. Buongiorno Luca Grasselli. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È così Grasselli? È un filosofo mancato lei? Ma no, non mi piace dire mancato, insomma, diciamo che sì, non ho seguito la filosofia in tutto e per tutto, però l'ho studiata e ne ho apprezzato le cose positive e negative per poi darmi all'agricoltura, diciamo. Senta, ma qual è il filosofo che si porta dietro, magari proprio che ha avuto dei consigli quando lei si è dato all'agricoltura? Questa è una domanda un po' complicata, però in linea di massima Nietzsche... No, ma nel senso la bellezza del suo pensiero, delle piccole frasi, gli aforismi, queste piccole cose, ma penso che ci sia un rapporto molto stretto fra il cibo e la filosofia, anche se non tanto sviluppato dai filosofi, però è la verità va assaggiata a piccoli bocconi. Kant si è occupato di olfatto, si è occupato di gusto, quindi sicuramente sono molti filosofi che se ne sono occupati. Ma vogliamo tornare ai formaggi. Allora, da filosofo a casaro, com'è questa storia? No, la storia è che ho studiato 5 anni filosofia perché... dal liceo avevo questa passione, l'ho conseguita e l'ho portata avanti fino a studiarne 5 anni a Milano, filosofia, all'università a Milano, e successivamente volevo cercare un legame fra la filosofia e il cibo, quindi il lavoro dei miei nel campo agricolo. Ho fatto un master in scienze gastronomiche all'università a Pollenzo, l'università di Slow Food, e quello è stato diciamo il gancio, il trampolino di lancio tra la filosofia che avevo studiato e quello che volevo fare poi nel mio futuro, insomma, quindi il formaggio. Ma l'idea qua della nostra cascina in provincia di Cremona è di recuperare tutte le attività che si facevano in azienda. Noi qua in azienda abbiamo una piccola scuola, abbiamo le galline, abbiamo 2 ettari di orto, insomma cerchiamo di recuperare vecchi mestieri però rivolti diciamo al futuro. Si può chiamare cascina didattica la sua? Sì, no, più che cascina didattica è esattamente un micronido, quindi ci sono bambini che da 0 a 3 anni vengono qua tutti i giorni, sono 10 bambini, ci sono le insegnanti, mia moglie fa l'educatrice, è laureata in scienze dell'educazione e insomma l'idea è proprio che le cascine erano un centro di vita, erano dei piccoli villaggi, soprattutto qua vicino nella Valle del Po, diciamo. Senta Grasselli, e invece torniamo alla produzione dei formaggi. Quali formaggi vengono prodotti a Stagno Lombardo, se non erro, si chiama il posto? Esatto, sì, Stagno Lombardo, produciamo diverse tipologie di formaggio, abbiamo una 20 di vacche al pascolo, le brune alpine, e produciamo formaggi freschi che vanno dalle mozzarelle filate a mano, mozzate a mano, la provola che qua è tipica di questa zona, ma facciamo anche formaggi più stagionati che noi chiamiamo latteria, formaggella, sono cerchiamo di variare le tipologie di formaggio perché le vendiamo tutte direttamente. Di conseguenza, piano piano, mio papà ha iniziato con calma, ha imparato diverse tipologie e cerchiamo di soddisfare i nostri clienti, insomma. Senta, Grasselli, quando è che scriverà la critica della Ragion Gastronomica? A breve, dovrei mettermi un po' a ristudiare tutte le cose passate, però no, la passione per la cultura e per la filosofia c'è sempre e non vedo perché non collegarla con il cibo, insomma. Un'ultima cosa, oltre formaggi produce anche altri prodotti? Noi appunto cerchiamo di far rinascere la cascina, quindi adesso ci sono formaggi, verdure, uova e stiamo cercando di mettere un laboratorio per il pane, per trasformare le verdure, per fare un po' di degustazioni per le persone che vengono a visitarci, insomma. Allora, ci dia l'indirizzo, perché mi sembra che sia veramente interessante questo, diciamo, questo caso proprio da venire a verificare e magari da portare, certo, dei bambini. Ci dà l'indirizzo? Molto volentieri. Qua siamo a Cascina Lago Scuro, a Stagno Lombardo, in provincia di Cremona. Guardi, ora andiamo a Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, dove anche lì c'è un giovane che produce formaggi e anche lì mozzarella, ma con latte di capra e di pecora. Grazie Luca Grasselli e buona giornata Salvatore Polimeno. Buongiorno. Salve, buongiorno, salve. Buongiorno, allora ci racconta anche lei la sua storia? La mia storia sta iniziando adesso, invece. Noi in Pollarole ho un allevamento composto da 300 capi di ovini e 100 capi caprini. Ah, tanti, quindi, una bella madre. Vabbè, sì, perché noi lavoriamo più che altro sulla produzione dei formaggi freschi. Ho capito. Ricotta, cazzoricotta, giuncata, formaggi incerati. Però quest'anno con la collaborazione con le nostre 5 aziende pugliesi, di cui una di Corigliano d'Otranto, di Carlo Pulimeno, un'altra di Camassa, di Melendugno e due altre della zona di Bari, ci siamo uniti con le università degli studi di Bari, Aldo Moro, e abbiamo fatto questo progetto, cioè il fior di latte caprino, che è la prima volta in Italia che siamo riusciti a togliere questo prodotto, questa mozzarella, perché fino ad adesso è stato fatto sempre con il latte di bufala o il latte di mucca. Ma sai cosa le dico? Che io adoro il, diciamo, fatto con latte di capra, quello che si potrebbe chiamare il gorgonzola, non si può chiamare, ma insomma, io lo adoro. Voi lo producete? No, il gorgonzola no. Noi facciamo i formaggi freschi. Solo freschi, fatti. Beh, peccato, sì. Ci pensi, perché è veramente un prodotto che sta molto crescendo. Senta, sì. Salvatore, lei quanti anni ha? 31. E prima lei ha sempre fatto questo mestiere? Sì, sì, guarda, questo è un lavoro che va di generazione in generazione, da mio nonno a mio padre fino a che sono arrivato io adesso. Lei non ha avuto tentazioni di fare altro? Guarda, no, sono stato sempre appassionato da questi animali. Vedere dei piccoli ruminanti mi sembrano come delle macchine di trasformazione. C'è una cosa strana, vedere un animale del genere ingerisce un po' d'erba e poi riesce a trasformarla in latte, grazie alla loro composizione. C'è una cosa che mi ha sempre colpito. Ma questa è poesia, è un atto d'amore, sa Salvatore? No, sono anni di lavoro che, guardando le razze, migliorando l'allevamento, te ne rendi conto da solo, però ci vogliono anni ed esperienza. Io devo dire che è un po' di invidia nel sentire quello che lei sta dicendo, perché secondo me questi fatti emozionali sono sempre meno, e quindi sì, specialmente ai giovani. No, ma più che altro questo è stato un gioco che ho voluto seguire, perché sapendo che nel 2000 ormai nessuno vuole più prendere questi lavori e di conseguenza c'è da pensare che in questi lavori non hai più molta concorrenza rispetto agli altri settori lavorativi. Bene, hai un vasto ampio campo di cose, di lavoro. Mi sembra un'acuta riflessione. Salvatore, io la ringrazio, la saluto e le auguro buona fortuna e continui a avere questo amore per il suo mestiere, perché secondo me solo così si può sopperire alla fatica e magari anche a molte delusioni. Grazie Salvatore, grazie. Di questo messaggio. Bene, ora andiamo alla Cascina Veia, in provincia di Cuneo, a Chiusa Pesio. Andiamo da Massimiliano Gastaldi. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a lei. Quindi qui siamo un gruppo, non siamo più un giovane solo, ma siamo un gruppo. Di quante persone? Allora, no, diciamo che la ditta è una ditta individuale. Sono io il titolare, mia moglie coadiuvante. E poi sì, in azienda abbiamo tutto un gruppo di giovani che lavorano con noi, partiamo dai 18 ai 32 anni. Senta, lei prima che lavoro faceva? Guarda, io ho iniziato la mia attività a 20 anni, quindi la mia attività è sempre stata questa, ho aperto l'azienda agricola nel 2001 e successivamente nel 2005 ho aperto anche l'agriturismo. E voi producete anche, ho visto, dei prodotti, se non erro. Noi abbiamo circa 4.000 metri di serre dove andiamo a produrre ortaggi, quali peperoni di Cuneo, pomodori, zucchine, melanzane, e poi comunque abbiamo le fragole, quelle rinomate per le fragole, piccoli frutti. Ma in questo momento si riesce a commercializzare bene, Massimiliano? Allora, noi riusciamo a commercializzare bene perché utilizziamo molto la vendita diretta in azienda e comunque trasformiamo i nostri prodotti nella cucina dell'agriturismo. Quindi siete un agriturismo vero, insomma? Assolutamente sì. Poi abbiamo anche un allevamento di pecore, della razza delle langhe, una razza autoctona. Produciamo latte, facciamo i formaggi. Quindi siete una cucina a metro zero, non a chilometro zero? Assolutamente sì. Senta, voi fate anche dei menù particolari al ristorante? Come cucina facciamo sempre la nostra tipica piemontese. Cosa facciamo molta attenzione? Alle intolleranze, alle allergie, quindi quando i clienti prenotando prima ci fanno presente un problema sulla celiachia, intolleranza al lattosio o altre intolleranze alimentari, vediamo di riuscire a dare risposta a loro con menù adatti, ho capito. Senta, producete anche vino? No, siamo fuori dalla zona di vino, siamo vicini alla zona della Langa, quindi dell'Albese, e i vini li acquistiamo da chi li fa bene, diciamo così, nella zona c'è l'imbarazzo della scelta. Bene, io la ringrazio, Massimiliano, dell'agriturismo Cascina Veia, provincia di Cuneo, a Chiusa Pesio. Bene, abbiamo finito questo giro d'Italia, che devo dire molto interessante, perché abbiamo sentito ancora quanta voglia, quanta passione e anche quanto amore c'è su molti giovani per la terra, per mestieri che magari da altre parti vengono rigettati o vengono considerati di serie B. In realtà abbiamo sentito delle storie che sono sicuramente di serie A, di eccellenza proprio rispetto a tante altre storie, quindi fa molto bene ascoltare Sonia Spagnoli, Angelo Manna, Massimiliano Croci, Giampaolo Isabella, Anna Musotto, Gioacchino Di Leo, Andrea Suriano, Roberto Zeglioli, Luca Grasselli, Salvatore Pulimeno e Massimiliano Gastaldi. Bene, belle storie che credo magari voi abbiate preso appunto. Se non avete preso appunto, potete riascoltare la trasmissione sul sito di Radio 24 e magari appuntarvi e andarli anche a trovare e comprare i loro prodotti. Bene, il vostro gastronauta vi augura un felice weekend e vi dà appuntamento alla settimana prossima, nonché al riposo del guerriero alle 11.15 di domani e ogni giorno con la pillola delle 11.05 e delle 23.05. Di nuovo buon weekend a tutti.